Eccoci qua, bentornati a Radio Mantico. Questo è il titolo che ho scelto per la mia trasmissione in solitaria. Chissà perché mi viene sempre a fare queste cose di notte. Sinceramente il mio computer segna le 1.50, domani a mezzogiorno ho un aereo, ma non me ne può fregare di meno. Ho voglia di fare questa puntata, la faccio e... anche perché mi ero rotto le palle, insomma, ti senti sempre la vecchia, sempre la stessa e basta. Allora, io voglio essere un po' provocatore in questa puntata, voglio farvi ascoltare qualcosa di pornografico. Sì, ho detto bene, pornografico. Questi sono i De La Soul con Pornstar. Poi leggerete bene il titolo. Ciao! The following explicit content in this song by Pornstar are not necessarily the views expressed by De La Soul, but they understand. Execute Pornstar. No! Oh, baby, pop that shit, bounce that shit, yeah. Yeah, don't stop that shit. Yeah, yeah, don't stop that shit, pop the bus. Yeah, you gotta go. Mm. You like that? Oh, I think she like that. Check it. Check it. Pussy got me wide open, writing the love notes. Butt neck, stripping out of a trench coat. Got me hitting high notes, pitching the deep throat. Bitch be sucking niggas car. Yo, I broke my piggy bank just to see that pussy stink. Smellier than Africans in Africa. Whoa, I know, like you know, when you're spending them $100 notes, we box triangles all in. Yo, throw on the table, shit. Now, I tiger with a phone cable, bound to bite a wrist and ankle. I bust off right upon a navel. Yo, acting like we kidnappers, dagging them out for two dicks. Take a couple of new flicks. Click, click, give up the money, bitch. Had her backing it up, smacking it up. Yo, we fucked till the sun came up. Lady, special lady, do what you do. Cause I don't care of what they say to you. See, you're my porn star. You're beautiful to me in every little way. Very special lady, wear the doggy style. Or even missionary. Yo, I reign supreme, champion back off. Shorty's a five-star pointer. Turn tricks, wants the dicks inside her. Work the spread eagle like National Enquirer. Pussy lips, grip the necks of Coke bottles. A turnstile stencil, happy nibbling on a nipple. All of a sudden, out came the shackles. Shell ain't got no problem with that. You'll be my porn star. He is the most incredible. He was put him to Sinflo. Canada. Because no. Ora questa sera i due nemici. Vorrei proprio essere lì, guarda, per fissarti negli occhi mentre sei tutto rosso e paonazzo di vergogna. Eppure non c'è niente di male, è solo un suono, un rumore. Magari sono due persone che giocano a mosca cieca. non ci credi neanche tu, eh? Comunque, dimmi la verità, che cosa c'è di più pornografico di un film porno se non la sua stessa traccia sonora? È il suono che fa la differenza. Il suono entra direttamente nella testa senza passare per l'immaginazione, anzi la scatena da dentro. Chissà che cosa può succedere, magari reinterpretando Biancaneve. Io non so, vabbè, questa puntata è iniziata un po' in maniera strana. Comunque andiamo bene, siamo su ritmi abbastanza rapidi, quindi io vi do qualcosa tratto da un videogioco. Questa è Tao of the Machine, fatta da The Roots and BT. Ottimo e abbondante, direi. Beh sì, anche io stavo come te sulla scrivania ballando come un pazzo e calcola, mi sono anche tirato fuori l'ombelico, però era così, era per fare lo scemo con i vicini di fronte. Comunque questo era un pezzo che suggeriva sì uno spot pubblicitario o qualcosa del genere, era magari fatto che ne so, fatto tutto di un collage di mondi virtuali in 3D o un susseguirsi velocissimo di spot pubblicitari, non lo so, comunque dava un po' l'idea di questo tipo di produzioni. E invece di seguito preferisco andare su un pezzo un po' melodrammatico. Questi sono gli IMX, ex Sneaker Pimps, direi, per chi di voi li conosce. Questo pezzo si intitola Kiss and Swallow, molto molto dark. Oh, Yeah. sì, lo so, purtroppo ascoltare gli IMX significa un po' anche condannarsi a riascoltarli per almeno 6 mesi, perché te lo metti dentro l'iPod o nel lettore MP3 o nel telefonino e non riesci a far altro che mandare avanti e indietro quel cazzo di disco. Forse perché hanno questo appeal un po' da dark, un po' Depeche Mode, molto simile a una situazione degna di Batman, direi. Comunque è la notte che ispira, ma che ne so, mi sento così, c'ho bisogno di sentire queste cose io. Questo sound elettronico così che mi porta a zonzo nella notte, consumandomi nel fuoco. Vabbè, dopo il cazzeggio facciamo i seri. Questi di seguito sono i Matafix, un ottimo duo inglese che ama l'elettronica, ma allo stesso tempo non disdegna di fare un eccellente pop. Questo pezzo loro si intitola Shake Your Limbs e anch'io vi consiglio, insomma, di darvi una scossa. Buon ascolto, a dopo. Chao, chao. Oh, scusa, mi ero assentato un attimo, ho lasciato un po' il disco scorrere. Sì, sono andato in bagno, anche perché il pezzo dei Mattafix è uno di quelli che ascolto sempre mentre vado in giro, proprio perché mi dà questa specie di passo cadenzato, un po' da anatroccolo fiero, che va in giro e dice adesso spacco il mondo, adesso vado al lavoro, guardo in faccia il mio capo, gli sputo in faccia e dico mi licenzio, oppure vado a scuola, guardo il professore e faccio oggi vengo volontario e faccio scena muta apposta. Così sono quei pezzi che danno convinzione, a me piace molto, solo che ti senti un cretino perché effettivamente non è che c'ha un ritmo veloce, insomma è troppo cadenzato, tu cammini per strada e ti guardano tutti come un deficiente. Questo è l'effetto Mattafix. Potrei anche brevettarlo e metterlo su Wikipedia, ma lasciamo perdere. Che c'è dopo? Ah, ecco. Dopo ho scelto invece qualcosa di molto meglio di Meg e molto, molto simile a Björk. Questa è una piacevole scoperta, anche perché io sono un fan dei Delta V. Questa è stata una delle loro cantanti, si chiama Ilaria Graziano e questo pezzo si intitola Monochrome. Silent ocean mourns, new fiends, new Benissimo cosa stai pensando. Stai pensando che sono uno stronzo perché ho preso all'improvviso e abbassato il ritmo della trasmissione. L'ho portata da essere qualcosa di danzereccio, di movimentato, a una palla totale di suoni sperimentali, eccetera. Beh, non è così. Adesso ti propongo un esperimento. Mettiti le cuffie, ascolta Radio Mantico in cuffia, ad un volume medio, insomma, non esageratamente né alto né basso. E riavvolgi indietro la puntata, prendi il dito, clicca col mouse sul lettore di Radio Mantico, torna indietro di qualche minuto e prova a riascoltare gli ambienti di casa tua all'interno della canzone. Prova a scorgere quel rumore della porta che si apre, della finestra che sbatte, dei mobili in cucina che fanno rumore, non so. È un po' come immergersi in una situazione di quotidianità, però tutto questo è ritmato in un modo che non so, sembra scandito quasi da un orologio. Non so neanche io che cosa sto proponendo a voi ascoltatori o a te in particolare, però devo dire che questa è molto meglio che una trasmissione che vada fluida in una sola direzione. Io preferisco che tu prendi, torni indietro e ascolti un pezzo e magari poi mi scrivi una mail e mi dici: senti Bacca, hai detto una cazzata. Preferisco questo. Qui di seguito abbiamo invece un altro gruppo inglese, questi sono i Day One. Questa canzone loro risale a, non lo so, forse agli anni 90, non ricordo bene quando. So solo che la vedevo quando Magic TV era agli esordi. Sì, su Roma lo trasmetteva solo Magic TV, MTV nemmeno ci è arrivato a trasmetterlo. Questi sono i Day One con I'm Doing Fine. Se vi ricordate bene, ha anche fatto parte della colonna sonora di uno spot pubblicitario. Oh, non è che poi mi mandate 10.000 mail con scritto "hai detto una cazzata". Everyone has their own center to this universe, but it stops right there. And kids are trying to say it all, writing graffiti on the wall, but it stops right there. And we're all in the know from one television show, but it stops right there. And take care of yourself, 'cause it's all about ourselves, and it stops right there. I'm lost looking in a sea of faces everywhere. Now where did she go? I need to find her quickly to nurse my insecurity. I'm lonely amongst these people, and I need to feel love, and I need to feel part of something. Is that strange? And why are they reluctant to talk? And why do they look alone when they walk? I see a face but no names. But despite my confusion, I've come to the conclusion that people need people. It's something I forget, but I've come to accept that people need people. And I'm alright, and I'm okay. I'm surviving well without you. And what did you want? And what did you expect? Did you want me to still talk about you? No, no way, no way. I'm on my own now, and doing fine. No, no, no way, no way. I'm on my own now, and doing fine. And anyone can give money to a good cause, but it stops right there. And anyone can sign a petition to change a law, but it stops right there. And we can believe in socialism or any theorism, but it stops right there. And take care of yourself, 'cause it's all about yourself, and it stops right there. But I'm not part of this. I'm not seeing what they're seeing. I'm staring at the ceiling to the world to see what is lying on the horizon. Maybe I'll see you again someday, girl. But despite my raw deal, I still feel that people need people. It's something we forget, but we must accept that people need people. And I'm alright, and I'm okay. I'm surviving well without you. And what did you want? And what did you expect? Did you want me to still talk about you? No. No way. No way. I'm on my own now. And doing fine. No. No. No way. No way. I'm on my own now. And doing fine. I'm doing fine. Che i quartetti d'archi possono dare a qualsiasi tipo di musica, che ne so, un po' come il prezzemolo, ecco, direi lo potresti mettere sulla new wave, lo potresti mettere sulla carne, sul pesce, lo potresti mettere anche sull'hip hop. Beh, lo hanno fatto, sì, lo hanno fatto. Comunque, questi, caro mio, erano, o cara mia, ecco, questi erano i Day One con I'm Doing Fine, un pezzo che io ho amato tantissimo e per molto tempo, ma forse credo per le ragioni sbagliate. Non starò qui a raccontarti perché, sono affaracci miei. E poi è veramente difficile parlare sulla musica mentre va, non lo so, forse perché sono le mie prime esperienze, però è complicatissimo, mi distrae tantissimo, pensa, devo addirittura tenere gli occhi chiusi e parlare al monitor. Ma comunque per questa volta voglio fare un'eccezione alla normalità, ecco, perché ho scelto una canzone sapendo solamente chi fosse l'autore. Questo è il caso dei Cousteau, che molti amano e, beh, fra questi molti, insomma, mi posso anche inserire. Questa canzone è To Sail Away, del loro nuovo disco, Nova Scozia. Nothing can cut through. Is it over? tell me it's over. It didn't catch the flame, it only stayed the same thing. I know you feel it too. I'm making just like you to sail away. Not the way this should be going. We need a little relief from this wind and rain. Is it over? Tell me it's over. Erano i Gusto con To Sail Away. Devo dire un gran bel pezzo, come d'altronde tutte le canzoni che hanno scritto e suonato. Non sono mai rimasto deluso, anche scegliendo a casaccio dalla loro discografia, devo dire. E poi questa voce incantevole lascia come una specie di cortina di fumo all'interno della stanza, anche se è pieno giorno. Adesso divento anche io pornografico, inizio a sospirare al microfono, è grave, veramente grave. Di seguito, ah ecco, guarda, mamma mia, che ho scelto. Questa canzone è bellissima perché racconta, è un po' l'apologia che fa di se stessa la cantante riguardo al suo piccolo vizietto con Maria Giovanna. Breathing in, nella tua vita hai potuto ascoltare una canzone d'amore dedicata a Maria Giovanna. Proprio una canzone d'amore dedicata, non come le solite canzoncine per ridere come gli Articolo 31, i pezzi hip hop in cui uno fa il gaggio, fa lo splendido, io fumo qua, io fumo là. Questa è proprio una canzone d'amore dedicata a questa sostanza. Tu ti starei chiedendo, vabbè, ma non mi dici il titolo del gruppo, scusa, il titolo della canzone, il nome del gruppo, così me lo cerco. Allora, io te lo dico, tu te lo segni, però prima di tutto, mi raccomando, vatti a leggere il testo, fondamentale. Questi erano i Concrete Blonde con Sweet Jane. E poi, subito dopo, io... non andrei subito con un pezzo, vorrei prima parlare di una cosa importante, una cosa a cui tengo molto. Ecco, il progetto Radio Pazza nasce perché io e Grex ci siamo messi in testa di voler fare la radio, però la radio non è semplicemente un'ora di registrazione. Radio Pazza vuole essere anche un contenitore, qualcosa che possa suggerire a chiunque di voler prendere un giorno, si scarica i software o se li compra, quello che gli pare, un microfono, un computer e registra. Registra, fa quello che esattamente facciamo sia io che lui, l'abbiamo fatto insieme, lo stiamo cercando di fare in solitaria, ma è veramente interessante e soprattutto credo anche terapeutico, almeno per me insomma. Quindi io invito chiunque di voi non sia soddisfatto della mia playlist o della playlist di Radio Pazza e abbia delle idee sue, sia convinto, ecco, chiamaci, scrivici, manda una mail, scrivi un commento, vuoi fare la tua radio? Io ti dico come si fa. E poi, se vuoi, se ci piace, se ti piace, la mettiamo dentro Radio Pazza, dentro il blog di Radio Pazza. Il blog di Radio Pazza è un contenitore per tutti, poi io faccio la mia trasmissione, Gex fa la sua, ma è lo stesso. Comunque, questo è un invito aperto. Adesso Radio Mantico va avanti con una incantevole canzone... struggente e soprattutto disperata di Angela McCluskey con Don't Explain, un classico del jazz. Endure all my thoughts. so completely yours. Can't hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong don't matter when I'm with you, sweet. Hush now, darling. Explain, you're my joy and pain, my life, yours, love. Don't explain. Non potrò mai spiegarti il mio senso di inadeguatezza nel dover riempire questo silenzio, nel cercare di fare il mio, tra virgolette, lavoro. Però dopo la bellissima voce di Angela McCluskey e la sua veramente impressionante disperazione, non so, mi sento come avvolto da un tessuto prezioso. Bene, Radio Mantico è giunta al suo termine, almeno per questa puntata numero 2, e come ultimo pezzo ho scelto di farti ascoltare i Subsonica con uno dei loro ultimi successi, credo, non so, perché in questo momento non sono in Italia e non so come stanno messe le classifiche, però devo dire che questo pezzo sta segnando in questo momento, in questo preciso istante, sta segnando i miei passi nella città, sta come dire facendo da colonna sonora le mie passeggiate dentro Barcellona. Questo è Nei nostri luoghi. Radio Mantico apparirà di nuovo, non so, forse fra una decina di giorni. Buon ascolto. supposed to